sono nuovi, capito? Perché non so se la misura cambia, perché se tu lo metti dalla stessa misura della vetroretina, però c'è dentro il filo di rame, è spedalato, è più lungo, io pensavo che fossero addirittura da 2,75. Ah, io non mi fa niente, sono 2,60 metri radiati, non mi fa assolutamente niente, fatto vedere da me, non influisce nella stazionaria, nel piano di massa, non fa assolutamente niente, tanto è vero che tu su una Mantova 5 perdi 4 radiali, ne hai uno, l'antenna funziona lo stesso perfettamente, ho visto quella di Gianni, stava funzionando con un radiale ed era perfetta, senza stazionarie, perfetta. Chiaramente l'estetica era brutta, quindi lui l'ha voluta mettere nuova, però era funzionante con l'antenna, quindi non ha nessun problema. Quindi le metti di alluminio, l'antenna ha la stessa resa, non cambia assolutamente niente. È chi da turbo, no? Sono egozito, claro. Cosa giamma? Non c'è manudano, lo vendono quella cosa lì. Esatto, ma nella Mantova 1, se tu vuoi togliere i radiali vetrorecen, Antonio, li metti in alluminio, non cambia assolutamente niente, assolutamente. L'antenna, l'importante è che lavori almeno a 2 metri di altezza dal piano del tetto, capito, in modo che irradia bene, ma soprattutto io, sul tetto, le antenne sono abbastanza alte perché questa è 4 metri di tubo, adesso la porto molto più alta, ma le cambio posto perché uso la parificazione dove c'era le direttive, almeno sono tranquillo e sereno, anche questa parificazione va bene, ma quella là è molto più resistente, i tubi sono molto più grossi, eccetera, sono tubi tipo innocenti a telescopici, capito? Quindi la metto lì. Però sto dicendo, immaginati io che ho il terrazzo, 30 metri di terrazzo, 30 metri lungo per 20 largo, dove c'è il cartone catramatto, ma sopra il cartone catramatto c'è tutta la pellicola di alluminio, quindi c'è un piano di massa allucinante. Beh, male non gli fa la massa, eh? Un piano riflettente allucinante, capito? Pazzesco, io vedo anche i dipoli lavorano a 2 metri di altezza ma hanno una resa micidiale, e questo mi è stato detto da chi veramente si intende di antenne, di piani di massa e cioè che fa questi lavori di antennisti, che hanno detto quando sopra un terrazzo c'è un'antenna radiante come la tua, che sia dipolo, direttiva o verticale, e il piano riflettente è in alluminio così come è tu, con la pellicola d'alluminio, mi ha detto è una manna dal cielo, è allucinante, lavora molto molto bene l'antenna, capito? All'altezza che sono, con il piano di massa a terra che è pazzesco, è chiaro che le antenne lavorano bene, tutto qua. Devo vederla quella lì, Fra, devo vederla com'è, se funziona bene ne piazzo un'altra. Così divido un po' le radio, mi metto una radio diretta, mentre le altre le faccio passare sotto la T230, capito? La metto all'angolo e monto un'altra manta, ma intanto io non ho bisogno di calate perché ho il commutatore elettronico sopra, quindi dall'antenna al commutatore sono 7-8 metri di cavo, e poi c'ho un'unica calata per tutte le antenne, per tutte le radio che ho, capito? Vai Antonio. Capa, no, già va bene così. Ho messo l'altra manto, va messi. Se si può, sì. Non voglio che si può, ne ho posto. Adesso non ci sono le direttive, ne ho posto. Prima non potevo mettere molte antenne perché quando giravano le direttive ci avevano 4 metri di apertura di ali, quindi quando giravano toccavano, capito? Adesso non c'è più direttive, quindi posso metterla un'altra mantova senza fare nessuna calata, mi aggancio direttamente al controbox che ho sopra il tetto del commutatore elettronico, c'ho il commutatore elettronico, quanto c'ho il comando da giù elettronicamente, non ce l'ho manuale, capito? Tutto elettronico, a 5 vie americano della Meritron. Ci ho pagato 250 euro sul commutatore d'antenna, infatti l'ho lasciato perché mi aggancio le altre antenne, così non ho bisogno di fare altre calate, capito? Vai Fra, che ora si è fatta? Un volto e mezzo, insomma, fra un po' c'è la partita dalla Juve, va. Le prendi Fra? Eh sì, è una comodità il commutatore. No, voglio sapere, Antonio, tu come stai uscendo come antenna? Ah, tu? Prendo io, signore, dai, che sono tocca chiudere senza salutarvi. Ne approfitto che ormai, che poi Antonio adesso che si è ritratto un po', quindi rilancio il mic a lui. Ciao Claudio, ciao Franco, ciao Vittorio dello Scultore, ciao Antonio, dai, riprendi se ci sei. Kappa, già ci sono, ciao Tilo, vai, ce la risentiamo alle prossimine. Io la Ringo sto usando. Va bene. Ciao Tino, comunque, un abbraccio, alle prossime. Senti, capita, no, se ti ha lo schema della Mantova, me lo fai avere, o dai Claudio, poi me lo gira, quindi do uno sguardo se ce l'hai. Avanti, Cla. Ehi, non controllare qua se ce l'ho anche io, perché mi pare avevo qualcosa della Mantova. Ciao Tino, un saluto, buon fine domenica, buon inizio settimana, per domani, alle prossime, vai. Ehi, grazie, tanto. L'ho fatto io, ha disegnato, se vuoi, intanto credo che già lo capisci, mando il disegno a Claudio, dai, via WhatsApp e poi te lo faccio girare, ok? E Kappa, ti ringrazio, ciao, grazie ancora. Meglio, ciao. Intanto forse è meglio sicuramente quello di Tino, uno schizzo così fatto a mano, che quello della Mantova, perché la Mantova ti dà il montaggio degli innesti e la misura della spirale, non ti dà altro. Sì, no, mi interessano i collegamenti, quelli, infatti io avevo così, più o meno ho capito che sicuramente quel filo andava a finire al PL, attacco del PL, però volevo la conferma e basta, beh. Ma non ho capito in che zona di Sacro Cuore stai modulando, però. La parte bassa, dietro la chiesa praticamente. Non mi ricordo. Ce n'è una, ce n'è di antenna lì, ma era di Giuseppe, era. In quella zona, di un amico mio. Poi non lo so se ce n'è qualcun'altra. Non mi ricordo di aver capito in zona, non è proprio sacro cuore. Sono dietro la chiesa, ma non è un'antenna sul tetto, è la mia, è sul, come si dice, davanti alla finestra. Ah, c'è un'antenna davanti alla finestra. Kappa, non si vede, cioè no, non è sul tetto, dai. Ah, ho capito. Tu sei in zona al tetto? Sì. Sono in zona di Corso Vicco, dai. Corso Vicco, dove c'era Natalino, c'è lì? No, lui è in Corso Trinità. Ah, qua a Corso Vicco, hai ragione, sto sbagliando io. No, non ce l'ho presente allora dove sia l'antenna. Sì, Kappa, ci sarà neanche, boh. Questa vabbè, io ci sono qua 2 mesi, quindi. Tra un po' faccio 2 mesi. Ah, Kappa, quindi da poco, dai. Bene, a che ora inizia la partita, Kla? Aspetta, che va peggio, che stavo prendendo la colonnina del 4.40 che l'avevo tolta. Mi sembra alle 8.30, alle 9, boh, ma cos'è il genere? Come qua mi ha visto 2 giri di Formula 1, insomma, qualche barlume di speranza ce l'abbiamo, un qualche miglioria si è vista, dai, con la Ferrari, specialmente con Leclerc, e basta, E cosa ha fatto? Ha vinto? No, a vincere non ce n'è per nessuno, davanti ci sono le due Mercedes che sono intoccabili, specialmente Hamilton. No, è arrivata quarta, ha sfiorato il podio, gli ha fregato Verstappen, mi sa. Io non voglio andare. Cos'è? Chi c'hanno come per magia? Non la vogliono dire tutta, però c'è stato un qualcosa con la FIA, qualcosa. Perché sennò il motore già ce l'avevamo, fidati. Chi l'hanno passato l'altra macchina dava parecchio fastidio, dava, c'è un motore da paura. Quest'anno non si capisce che mala sorte sia successo. Caso strano, il motore è di meno di potenza, se no è età di nessuno la Mercedes, è successo un qualcosa, è successa. Praticamente, per quanto ho capito, sulla Power Unity, gli hanno bloccato la Power Unity alla Ferrari, quindi non so cosa stia usando adesso, ma quella che aveva lì forse o non era in regola, non era a norma, e quindi gli hanno bocciato il progetto, quindi è ritornata su qualcosa di vecchio, addirittura anche peggiorata, perché i tempi addirittura lì erano peggiori dell'anno scorso. E allora no, c'era un motore l'anno scorso a Monza, cioè, faccio la maniera impressionante. Ha fatto segnare la velocità record. Quest'anno, come per magia, non è più così. C'è qualcosa di strano. Lasciamo perdere, va, che è meglio. Chissà cosa gira, cosa c'è dietro, non lo so. Avanti, cra. Io vi saluto perché vado dall'altra parte in cucina, ok? Grazie delle due chiacchiere come sempre, se coincide più tardi, ma intanto mi devo guardare la partita, quindi sono qua in sala radio, ok? Ciao Fra, saluti a casa, ciao anche a te Antonio, se coincide a dopo, altrimenti a domani, ciao a tutti. Mi saluti anche da parte nostra qua, da parte di tutti, un abbraccio anche a te e famiglia. Dai, vi saluto anch'io, così mangio qualcosa al volo e poi ci guardiamo la partita, ok Anto? Un abbraccio anche a te. Ok, ciao Fra. Ma la fondo scala ti arriva a te? No, sei sui 9, fai il passaggio? 2-3, prova, vabbè, sono calato parecchio di potenza. Sei sui 9.15, 9... sì, 9.15, 9.20, dai. Già va bene, dai. Vabbè, adesso ho solo 10 watt. Poco qua non era mica così. Ok. Chi è che ha salutato? Avanti! Eccomi. Ho salutato Claudio in fretta perché ogni tanto sto sempre cambiando stanza. E beh, Fra, hai avuto informazioni un po' rilevanti. Sì, praticamente quel filo che vedevo prima, che usciva dalla parte di vetroresina, era collegato, è collegato al PL, al maschio, dai, dove tu poi attacchi il PL femmina. Ma è roba che si può mettere a posto? Devo guardare, non ho guardato se si può smontare il PL, se riesco a smontare il PL ci posso arrivare da lì, cioè infilo un capo nuovo, un rame, e glielo saldo e glielo cambio. Diversamente è un casino, devo riuscire a provare con un filippero se riesco a riacchiapparlo, ma sarà difficile perché il rame era già ossidato e ciccia, quindi ci vorrebbe quello spezzone nuovo. Non lo so, devo per forza aprirla. Ehi, va bene, non so chi sia entrato, non so chi sia uscito, io quindi sono uccelli bosco, dai, continuate, tanto sto facendo ancora roba qui. Ok. No, guarda, anche io infatti stavo salutando, ho salutato tutti perché sto andando a vedermi anche io la partita, mangio qualcosa al volo, guardo la partita anch'io. Ok? Un abbraccio anche a te, riprendi ma qui. Ehi Fra, ti volevo dire che si è aumentato ancora, sì, praticamente 9.30, ti spiego però, questo apparecchio c'ha 9.60 di fondo scala, non l'ho mai visto a fondo scala, però ti spiego, se Claudio arriva a 9.30 al 3009, che è il segnale massimo, qui arriva a 9.40. Quindi se tu sei 9 più 30, questo Smith dovresti essere 9 più 20 sul 3009, dai, a dirla proprio così terra a terra. È buono, dai, se pensi con le mie condizioni, dove l'antenna? E io quanto sono? Tu sei 9 più 40 a questo Smith, 9 più 40, io oltre il 9.40 non l'ho mai visto, mai. Non so nemmeno se ci vada oltre il 9.40, però sai... La scala qua c'è fino a 9.60, proviamo un giorno con qualche macchina vicino, magari in barra mobile. E se vuoi attacco, a vedere. Prova, se non ti viene male, prova. Se hai solo un tastino da premere, prova. Aspetta, un attimino che attacco la spina. Troppo difficile, si stacchi anche la spina. Vabbè Fra, dai, comunque se devi andare, ciao, ci sentiamo, buon tutto, dai, alla prossima. Buone prove, ciao. È vero. Ciao Fra, buonasera, buon tutto, alla prossima. Ciao Luca, anche a voi, ciao, buon tutto. Grazie, ciao. 9 più 40 anche Luca. Addirittura 9.40 sono. Allora 9.20 sono 9.40. No, allora, prima di tutto sei a casa adesso e ci vede. Ma questo Smith ha 9.60 di fondo scala, poi che lo faccia o meno non si sa. Io per adesso 9.40 ho visto, Claudio 9.40, Bombolo 9.40, tutti quelli vicini, tu 9.40, chi altri c'è? Ci avevi come te, va. è uguale a tu. Probabilmente non va oltre 9,40, cioè la scala è fino a 9,60, ma 9,40 è il massimo possibile. Allora bisogna metterci sotto con la macchina, dai che ripasso all'altro, se no fa il tribolo la cosa, dai. E riprendi Luca. Oh, poco fa Gio Mami mi gaggi il baracchino, stavo sistemando qua, sistemando l'apparecchio che è uno sopra l'altro. Ho fatto una mossa falsa, mi ci sono aggrappato, mi è volato anche una parolaccia e forse ho appoggiato anche il mic, non volendo. Facciamo mi ingaggi lo baracchino. Io ma non te ne ingaggi tutto. Quindi vabbè. Io stacco. Ma questa partita a pagamento è almeno? Cioè è gratis Tamore Day oppure canale a pagamento? Non lo so. Me l'ha detto. Bella mossa. Me l'ha detto Claudio, ma non lo gioco. Luca, sei a casa? Sì, per forza. Non riprende Luca. Comunque una cannonata esci, cazzo. Mezza voce lo arrivi. Ehi, ma anche liscio arrivi, non è che... Certo, il lineare aiuta. Il lineare aiuta, è molto pure. Caspita se aiuta. Basta avere di quei B150, 747, 203, RM Italy. Guadagni due Santiago e guadagni. Che sono 10 dB, 12 dB dovrebbero essere. Vabbè, 10 fai, per difetto. E sono un bel due Santiago, un bel. No, non stavo parlando di quello. Ho detto che Luca arrivava pure a Ugilo con la boomera. Esiste 40 anni con l'antenna. Ha sempre funzionato bene. Sì, poi è la stessa che ho avuto io. La LEM, la boomerang, quella full size, diciamo, non quella caricata. Quella caricata ce l'ho e vale poco comunque. Quella era una bella bea, poi se la metti sul tetto non ti dico nulla, guarda il profeta, caspita, sembra che ci abbia una 5 ottavi, o quantomeno una mezz'onda. E anche io non la via un'altra capiccioria, è tutto che qua è una zona un po' più bassa, un pava vero. No, ero soddisfattissimo, cioè, adesso io ho messo questa grande così, però quella là ci fa, capolo. Sì, ricordati, la boomerang è un quarto d'onda, un quarto, però almeno quella lunga, diciamo, rende bene. Domenica 25 ottobre, Juve Verona, vediamo, su Sky è pagamento, bisognerà andare per vie traverse. Lo so, cavolo. Secondo me la migliore, io gli altri non li ho provate, perché li fa la Sigma, li fa la Sirio, li fa tanti marchi li fanno, gli altri non li ho mai provate, secondo me la LEM è la migliore. Oh Marco, Oia. Ma ce l'hai il PMR alla portata di mano? Sì, casualmente ce l'ho qui a fianco. Il Bao Bao, aspetta, però antenna interna, vabbè, chiamami, chiama. Aspetta che vado alla finestra, Luca. Ehi, scusate che sono rientrato. Comunque lui, appena... Porca miseria, oggi mi ricaggi tutto. Appena rientro, appena metto l'antennino, appena dentro la finestra, allora il segnale si degrada, c'è poco da fare. Portata ottica, ecco perché io mi rompo le palle lui in PMR. E poi io non lascio niente installato qui, cerca di capire, no? Io solo il 3009 lascio fisso il ricevitore, non voglio problemi. No, io lo so. Vabbè, dai, giusto per fare una prova, tutto qua. Un attimino arrivo subito, e ho sistemato una cosa qua. Ehi, Antonio, ma tu eri in portatile? Sì. Paghissimo, pensa, anche se l'ho facciato non proprio zero, non si applica nemmeno lo squelch. E io non zero, la stessa cosa. O è negativo lì. Ho visto uno carino, ne ho visto, dai, dei cinesi, costa 20 euro. V e U. è senza frequenzimetro, ma mi hanno detto che comunque è una bomba, mi hanno detto. Ma tu hai visto l'888? Se tu hai visto quello è solo UHF e lo devi programmare a tastiera e c'ha solo 2 watt, ricordati. No, non è chissuno, no. Boh, a quel prezzo 15 euro mi pare strano, Anto, che sia bibanda è molto strano. E non ha tastiera, non ha display, giusto? E capa, non ti ho detto 15 euro, ti ho detto 20 euro. No, avevo capito 15. Ehi, guarda, io ho visto l'888, poi ho visto questi tipo Retevis che sono, hanno la scocca che è leggermente diversa, però poi dentro, identico all'888, e c'ha 2 watt soli però. E loro dichiarano 5, ma è una balla colossale, anche perché se lo colleghi al wattmetro, ti accorgi che sono 2 watt risicati pure. No, e quello lì è VUE, VHF e VHF. E costa così, costa. Non ha il frequenzimetro, ma... Vabbè, pare... non so che modello sia. Guarda, quelli senza tastiera di solito sono monobanda, ma poi chi lo sa. E che cinese l'hai visto? Che vado a vedere. Sono curioso. Anto, quale cinese? Muraglia. Ehi, dove li ho visti io? Una foto non l'hai fatta alla scatola, no? Vediamo se ce l'ho la foto mia. Porca, se l'avevo fatta la foto, vediamo se corrisponde. No, aspetta, guarda che c'è scritto VHF e UHF, ce ne sono due, di due tipi. Sì, io avevo visto due tipi. Fammi pensare, a meno che non sia disponibile, cioè loro intendono in due versioni, o la V o la U, ma non tutte e due assieme. Di solito quelli che hanno V e U hanno tastiera e display, di solito, ma chi lo sa, è possibile. Quelli cinesi sono figli indrocchia, ne inventano una ogni giorno. Oh, guarda che c'era una persona così, senza frequenzimetro, V e U. Non è così, no. Esci anche un bel forte. Caspita, sono ancora più curioso adesso. Esci a vedere. Muraglia, ok. Quando posso ci vado, dai. L'alimentatore l'ho preso lì. Appena qualche massa devo combinare, devo fare. Che non virai un baratto nella massa a terra, se non avrei collegato lì. Ah, buono, il gas è già andato. Sì, perché il microfono amplificato deve essere. Però se li piazzo questo sono sicuro che non è fa di casino. Lì l'ho trovato, capito? Adesso c'è un alimentatore normale, quello da 5 ampere. Che me l'ha dato una persona, me l'ha dato e lo tengo gelosamente, lo tengo. No, non si tocca da qua. Allora, ecco qua. Ah, qua nella foto ne ho di tre tipi addirittura. Allora, sul Baofeng c'è scritto VHF, UHF, FM transceiver, però di fatto è solo UHF. Può darsi che vendano la versione VHF anche, però non assieme, cioè non sullo stesso apparato. C'è la versione V e la versione U. Ti mando la foto, Anto, ti mando la foto, faccio prima. No, non per dire, lo conosco quell'apparecchio molto ma molto bene, molto. Prova a vedere. Guarda, dovrebbe essere quello al centro, quello al centro. Se è quello che penso io, poi tutto è possibile, ripeto. Non è arrivato nulla, no. Okay. Scusa, c'hai ragione, non ho premuto invio. Vabbè, eccolo. È quello? Dove cazzo l'ho letto io? Aspetta, sto leggendo. No, c'era scritto VHF e UHF. Sì, guarda che c'è scritto, quello di mezzo, sotto la scritta rosso BF888, sotto la scritta rossa BF888S, guarda che c'è in piccolo VHF, UHF FM transceiver. Questo era, questo qua. Sì, quello praticamente tu, lo devi programmare al computer, e il programma che ho io è UHF, però adesso che mi ci fai pensare, forse puoi selezionare la banda, però ricordati che non puoi mischiare le due bande, cioè o lo fai lavorare in V o in U, però, e chi lo sa, non lo so, può darsi pure che ci siano versioni con firmware aggiornati. Sì, è tutto possibile. D'altronde l'888 è uscito un bel di anni fa, sicuramente hanno migliorato le versioni, le hanno aggiornate, ci hanno aggiornato il firmware e chissà cos'altro. Vabbè, se lo fai, lo metto una banda per volta e lo fai andare, sicuramente è così, se funziona che va, è un bel apparecchio, è molto leggero, se tu lo prendi in mano il portatile, è molto leggero, dentro c'è un telaietto in alluminio, è leggerissimo, ricordati che naturalmente non è omologato, no? Capito? Sì, che è omologato. Aspetta, non ti ho copiato, ripeto. Aspetta, secondo me deve essere omologato. Vabbè, omologazioni cinciullari. Vabbè, no, gli omologati hanno mezzo watt e antenna fissa, Anto, e canali non programmabili, cioè devono avere quelle frequenze solite, 8, no? Ma perché questo baracchino omologato, no? Manco queste. Però lì è sempre, cioè, non bisogna farcelo vedere fuori, capito? Bisogna essere molto, se no le sanzioni, 2000 euro a botta ti bastano, 2000 euro di verbale. Ragazzo, me la butta a me. Anche nel banco. Ma se c'è il conto in banca te lo decurtano, te lo tolgono dalla banca, che ne so io. Allora anch'io posso dire, io non ho niente intestato, nulla, possono fare più verba che vogliono e chi glieli paga? Vedo ci vado in banca. Io non ho manco conto in banca, io niente, non ho intestato nulla, io non esisto per il fisco, quindi la voglia verbali, mi uso come carta igienica in bagno. Vai, ma contro dei picci mi buoni 2000 euro di multa, se ti voglio ricordo che ti assicuro a campo. Ecco. No, a parte gli scherzi, vabbè, no, quelli sono ufficialmente apparecchi amatoriali, perché c'hanno, cioè, programmabili a 400, 470, c'hanno 2 watt, chi 4, chi 8, chi 10, quindi in realtà sono apparecchi amatoriali, chi non è titolare di licenza non dovrebbe usarli neanche in PMR in teoria, io lo dico per informazione e non per rompere le palle, quindi tutti li usano, tutti, qua chi parla su 10 penso che, però sempre cautela. Ragazzi, me la butta a me. Non trovo dei picci, non devo andare questa cosa, devo imporre 2000 euro di multa, ma se non rimane la radio, ma non si innande. Non entro nel merito dei regolamenti, comunque, quello è. Ok, chi ci è rimasto qua? Credo nessuno. Tutti a vedere la partita, porca miseria, pagamento è su Sky. Devo trovare qualche canale pirata in streaming che lo trasmetta. Sì, beh. E prima ce l'avevo Sky, vabbè, mi sono questo fatto. Sì, tanti anni fa avevamo Sky per i film, più che per le partite, per i film. Addirittura non esisteva Sky, cioè quando l'abbiamo preso noi nel 2000 si chiamava Stream, mi pare, Stream. L'avevamo preso nel 2000 perché così per provare anche la roba satellitare, mi pare che c'era il primo Grande Fratello, quello che ha avuto più successo, cioè era una novità, no? Adesso è tutta una bucaria. Sì, si chiamava Stream, ma poi si è convertito a Sky, così mi ricordo. Sì, è vero, me lo ricordo pure io. No, c'era anche un altro Telepiù, mi pare. A te la metta Telepiù. Telepiù, ma cos'era, un canale... niente di più, ma tu stai parlando di 30 anni fa, per caso era un canale analogico a pagamento criptato tipo con roba erotico? Tipo Sky di adesso. No, sto sbagliando io. Comunque per il Grande Fratello, prima almeno facevano entrare gente con i mortali, no? Gente che magari aveva successo col Grande Fratello, no? Magari si faceva conoscere, molti hanno fatto anche molti, fortuna così. Adesso fanno entrare quelli VIP, no? Che già sono ricchi sfondati, no? Soprattutto sfondati, e quindi piove sul bagnato, capito? Poi vabbè, loro devolvono la vincita in beneficenza, tutto quello che vuoi, però secondo me gli danno qualcosa per perdere un mese di tempo, quanto è che dura, qualcosa gliela danno, e come, si fanno pagare bene i VIP. Ah, va bravo, se lo butta fuggio, è un dato, no? E appunto, ricchi sfondati, soprattutto sfondati. Che vada da quel paese, io non sono ricco sfondato, però di macarroni e cuzzinetti come a te. E vabbè, però tanti gusti non ce li possiamo togliere. Troppi gusti, non che me ne freghi un granché, perché poi io già sono, non sono troppo ok. Vabbè, gira, qua sono le 9 in punto, l'ora di accendere la televisione, ci sentiamo domani, buon tutto, buona cena, non te lo dico perché è già cenato, ci sentiamo quando capita, ok? Ciao, buona serata, buon tutto. Ciao, ce la risentiamo alle prossime domani, dai, domani torno a travagliare, mamma mia, domani è dura, ciao. E mi pare che da domani inizia il casino, poi, o da oggi, bar che chiudono presto, o giù di lì, è una rottura di palle, è una perdita di miliardi, non so, meglio, poveracci, non vorrei essere nei loro panni, dei ristoratori, eccetera. Dai, ciao Luca, se all'ascolto ancora, non so chi c'era rimasto, io, ritenetevi tutti salutati, ciao, buonanotte, ciao. Ciao Marco, dai. Ciao Marco, dai, ma sono tutti bagliacci, ma a perdere, sono venditi bagliacci a debù. Ciao a tutti. Ciao Anto, buonanotte. Buonanotte Luca, pure io mi ritiro, seguo il traffico. Ciao.